La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. E buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito. Subito il numero per i nostri sms 349-238-6666. E poi una domanda, Vincenzo, ma tu a scuola sei mai stato sospeso? Mi appello alla privacy, ma credo di no. Ma guarda, ero sicura. E sette in condotta? Non credo. No, io mi sa una volta, forse da giovane. No, perché qui alla Camera i grillini invece si sono beccati 5 giorni di sospensione dai lavori dell'Aula per aver occupato, ricordiamo, il tetto di Montecitorio per protestare contro le riforme che loro dicono in deroga all'articolo 138. Tra i deputati, 12 deputati del Movimento 5 Stelle che hanno trascorso la notte all'addiaccio la scorsa settimana, c'era anche Giuseppe D'Ambrosio, sentiamolo. Sono uno dei 12 discoli che ha occupato il tetto della Camera e che cercava in fondo di attirare l'attenzione dei media, dei cittadini su quello che stava accadendo, cioè la deroga al 138 che è il fulcro, il cardine della nostra Carta Costituzionale, che ricordo agli amici ascoltatori, ma probabilmente andrebbe ricordato più ai colleghi parlamentari, la nostra Costituzione è una Costituzione rigida. Quindi ha il 138 e il 139 che servono appunto ad essere fulcri e cardini per una Costituzione rigida, altrimenti stiamo tornando di fatto allo Statuto Albertino e quindi a possibili modifiche di maggioranza derogate nel tempo, e quindi ha una Costituzione che in qualche modo è schiava ed è modificabile dalla maggioranza del momento. E questo abbiamo sentito era Giuseppe D'Ambrosio, ma c'è anche un intervento di Casaleggio. Un intervento di Casaleggio, lo ricordiamo, il guru dei pentastellati. La diffusione dell'informazione grazie a internet renderà possibile la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, dice Casaleggio, e la diffusione di strumenti di democrazia diretta. Quindi dice no, il Parlamento è esautorato e viva il web, questo Casaleggio. Ma insomma, però alla Camera non l'hanno tanto preso bene questa storia dei grillini. Non l'hanno presa bene, e la decisione è stata presa tra l'altro anche dai vertici parlamentari qui proprio di Montecitorio, e tu hai avvicinato Gregorio Fontana, questore della Camera del Popolo della Libertà. Si tratta di un atto senza precedenti, perché esporre la bandiera di un partito sul Parlamento, che è di tutti, è di per sé una cosa grave. Guardi, l'immagine di far proprio con la propria bandiera il Parlamento, che è di tutti, è l'anticamera della fine della democrazia, è una cosa molto grave. Quindi avete dato 5 giorni di sospensione ai grillini? Sì, è una sanzione per sottolineare questo. L'opposizione anche dura si può fare venendo in aula, facendo la propria battaglia in Parlamento. Questi sono gli strumenti previsti dal regolamento, ma dalla Costituzione stessa, che i grillini vorrebbero difendere. Penso che sia importante usare le prerogative di libertà e di democrazia che la Costituzione prevede. Siete stati tutti d'accordo con questa sanzione? C'è stata una grande maggioranza, ovviamente tranne i grillini e la posizione della Lega, tutti i partiti si sono trovati d'accordo sull'opportunità di sanzionare un fatto senza precedenti. Senta, invece riguardo al PDL, che cosa succede? Si prende un po' tempo? Si vuole del atteggiamento del PD? Insomma, questo governo regge oppure no? Ma io penso che l'atteggiamento del nostro principale alleato sia una questione importante, quindi la verificheremo nei prossimi giorni. Certo, quello che è importante è realizzare il programma che noi abbiamo deciso di stabilire insieme al nostro alleato, e per far questo occorre che il governo sia unito. Un'ultima cosa sui grillini, c'è stato anche poi un intervento molto forte di Baldelli contro Di Battista, perché appunto vi ha dato, insomma, comunque ha detto che in questo Parlamento c'erano dei ladri, ecco. Ma sa, le offese in aula purtroppo non sono una novità, penso che ci siano lì, sì, ci sono tanti casi di insulti, contumelie e quant'altro, quindi si tratta di richiamare tutti a un linguaggio più adatto e più rispettoso dell'aula, ma soprattutto evitare i momenti per fomentare tumulti in aula, scontri e sospensioni della seduta, che sono del tutto strumentali. E questo abbiamo sentito, era Gregorio Fontana, questore PDL della Camera. C'è una domanda che mi si rivolge: non hanno esposto la bandiera al Movimento 5 Stelle perché non hai obiettato l'affermazione sbagliata? In realtà non è così, ho parlato con l'ufficio stampa proprio qui della Camera del Movimento 5 Stelle e hanno a un certo punto, un po' entusiasti, hanno anche sventolato una piccolissima bandiera del Movimento 5 Stelle e credo che Fontana si riferisse a quello, quindi sempre molto attenti i nostri ragazzi. Sì. Ascoltatori, abbiamo sentito anche una domanda, scusate le risate sulla tenuta della maggioranza, ma è 15 giorni che parliamo sempre purtroppo della stessa cosa, perché non so se ti ricordi, ma mercoledì in giunta per le immunità e elezioni del Senato ci sarà il voto sulla relazione del relatore Andrea Augello, PDL, che ha fuori Silvio Berlusconi, in relazione che verrà bocciata, insomma ne abbiamo parlato e ne parleremo sempre fino a che il voto non ci sarà. E allora bisogna capire il PD che fa, Vincenzo? Il PD cosa fa? È una posizione, quella del Largo del Nazareno, che non cambia, si va verso il voto sulla decadenza di Berlusconi che dovrebbe arrivare in aula a metà ottobre. Abbiamo avvicinato Nico Stumpo che parla sia di questo, ma la prima domanda è proprio sul fenomeno grillino e sul comportamento recente qui a Montecitorio. Ascoltiamo. Il tema non è manifestazione sopra le righe, qui è stato fatto una cosa che io reputo sbagliata, cioè quella di una manifestazione sul tetto della Camera, non per aver detto qualcosa per la quale nessun parlamentare può essere in nessun modo ripreso. Non è soltanto un fatto di essere andati sopra le righe. Quando si è in Parlamento, a mio modo di vedere, si ha il dovere di provare a cambiare le leggi, di fare leggi nuove, di applicare le regole, di farle rispettare. Quando si va fuori da quelle regole, che invece si ha il dovere di scrivere per gli altri e quindi di rispettarli per prima, è giusto che, come in ogni assemblea, in ogni forma di organizzazione, poi se ne assumano le proprie responsabilità. La posizione del PD espressa da Epifani è molto chiara sul caso Berlusconi, deve essere trattato come tutti gli altri cittadini, né più né meno. Le regole naturalmente vanno rispettate e le leggi si applicano. Non bisogna avere mai un di più verso nessuno ed è sbagliato chiedere un di meno. Siamo perché appunto questo lavoro si svolga nei tempi giusti, che si facciano tutte le cose, che si dia diritto al senatore Berlusconi, come nel suo diritto di difendersi. E per quanto riguarda, diciamo, la nostra base, io credo che non sia un di più perché Berlusconi, perché noi anche per altri casi che ci hanno riguardato direttamente per gli altri non abbiamo mai fatto, diciamo, mancare quello che è un nostro punto di vista, che rispetto a queste vicende è sempre lo stesso: quando si ricopre un incarico pubblico si ha il doppio del dovere degli altri di essere più rispettosi di fronte alla legge. L'abbiamo fatto per i nostri, l'abbiamo fatto per altri e lo facciamo nella stessa ragione, la stessa misura per Berlusconi. Un'ultima cosa, al congresso PD ci sono indicazioni su quando si potrebbe avere questo importante appuntamento? Io, come abbiamo sempre detto, credo che il congresso si svolgerà in tempi utili perché si possa svolgere con serenità, in modo utile per il Paese prima e per il Partito Democratico dopo, entro questa stagione, quindi entro l'anno. Subito risponde ad Enzo di Milano: non prendo assolutamente in giro i grillini che difendono la Costituzione, anzi ho seguito passo per passo la loro occupazione proprio per Radio Radio 24, scusate. Concordo con le sanzioni e delle motivazioni addotte poco fa, scrive Sonia da Brescia. Per quanto riguarda, un saluto da Vincenzo Miglietta e un saluto da Elisabetta Fiorito.